Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Oltre che in FM potete ascoltarci anche in DAB, nelle province limitrofe per il momento, ma stiamo tentando di allargarci, ma dappertutto, in tutto il mondo, in tutto il globo terracqueo, come l'ha chiamato qualcuno, mediante il web, tramite l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal sito radiocittafujiko.it. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì, o quasi, ogni tanto scantono, ma quasi tutti i mercoledì dalle 10.30 in poi per un paio di ore vi fa ascoltare musica registrata dal vivo di tutte le epoche e di quasi ogni genere. E anche oggi, come sempre, Città Fujiko Live Club inizia con una novità, e se la scorsa settimana avevamo concluso la trasmissione con Need to Breathe, una cosiddetta Christian Rock Band, oggi la novità che vi propongo è appannaggio di una Christian Rock Band. Sarebbe a dire che prevalentemente su una base musicale rock si innestano dei testi a carattere religioso. Stiamo parlando di band americane, per cui la religione è sempre molto molto vaga, molto aleatoria, diciamo. Però c'è questo genere che ottiene anche un buon successo negli Stati Uniti soprattutto. La band che vi propongo oggi si chiama Sixpence None the Richer. Sixpence None the Richer è una frase che arriva da un racconto di uno scrittore che, se ricordo bene, si chiama Taylor, ma non ci giurerei, e che parla del fatto che i bambini per Natale regalano ai propri genitori, fanno dei regali con i soldi dei genitori, quindi i genitori con questi 6 pence non diventano assolutamente ricchi, più o meno naturalmente. È una band che viene da New Brunswick nel Texas, è stata attiva tuttora però in due trance, dal 1992 al 2004 la prima, poi si è riformata nel 2007 ed è tuttora in giro, anche se da New Braunfels si è trasferita a Nashville. I due leader sono Matt Slocum, che è il chitarrista e cantante, e Leigh Nash, che è la cantante. Sono i due leader e anche gli unici membri sempre presenti nella formazione. Ultimamente alcune voci danno la band per sciolta di nuovo, ma non ho trovato nessuna conferma per il momento su questa questione. Hanno fatto un solo album live nel corso della loro carriera, che è quello che vi propongo oggi come novità. Si chiama Live the Grunion Hall, che è un locale storico, sto parlando di un centinaio di anni, non di più, no, 200 forse, che sta proprio in New Braunfels, che è nel Texas, e che, come vi dicevo, era la città di provenienza in origine dei Sixpence Non the Richer. L'album è stato registrato il 18 ottobre del 2024 in occasione del tour del 25esimo anniversario della band. Il brano che vi propongo è quello che ha avuto maggior successo di tutto il repertorio di, lo ripeto, Sixpence Non the Richer, è scritto None the Richer, è andato in classifica in diverse occasioni perché è stato usato parecchio in, una, in diverse serie televisive americane. Si chiama Kiss Me, Kiss Me, loro sono Sixpence Non the Richer. Thank you so much. Can you handle one more? Come dicevo, il brano più famoso nella produzione di questi Sixpence Non the Richer si chiama Kiss Me, l'avrete capito dalle volte innumerevoli che è stato detto, ed è stato registrato a New Braunfels in Texas, alla Green Hall, da parte di questa band il 18 ottobre del 2024 e pubblicato qualche settimana fa in tutto il mondo il loro primo album live. E come vi dicevo, questo album è stato registrato in Texas, questo stato enorme, è il secondo sia come area che come popolazione di tutti gli Stati Uniti, quindi non è assolutamente da sottovalutare. E ha avuto una storia molto travagliata, perché è stato teatro di dominazioni, chiamiamole così, innumerevoli, forse francesi, spagnoli, portoghesi, austriaci, e fino alla fine, quando dal 1836 al 1846 è diventato uno stato autonomo ed è diventato Repubblica del Texas, per poi divenire uno degli stati degli Stati Uniti d'America. E è uno stato molto molto musicale, ha un sacco di posti dove suonano, Houston, Dallas, Austin soprattutto, che è considerata la capitale della musica live di tutto il mondo, quindi non è assolutamente poco. Avrete già capito che ci andiamo ad ascoltare in questa prima parte della trasmissione una serie di brani che sono stati registrati in questo enorme stato. E sono molto molto molto felice, come sempre, quando si tratta di musicisti italiani di valore. Infatti, benché sconosciuto qui in Italia più o meno, abbiamo un musicista, un armonicista e cantante che arriva da Voghera, che è attivo dal 1980, che ha un buon successo negli Stati Uniti nell'ambito della musica del blues, e anche in Texas, dove è entrato nel giro che conta e dove suona molto spesso, più spesso magari che in Italia. Lui si chiama Fabrizio Poggi, la sua band si chiama Chicken Mambo. E hanno fatto diversi album, dei quali appunto, diversi album in studio, dei quali alcuni registrati proprio negli Stati Uniti e un album live registrato negli Stati Uniti, esattamente l'Uptown Theater di Marble Falls l'11 settembre del 2010. Lo ripeto, Fabrizio Poggi e Chicken Mambo meriterebbero più successo anche dalle nostre parti. Il brano che ho scelto per voi si chiama Song for Angelina. Angelina è la moglie di Fabrizio Poggi, che fa un po' da manager, un po' da press agent, un po' da tutto, insomma. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare, dedicato a sua moglie, Song for Angelina, Fabrizio Poggi and Chicken Mambo. Song for Angelina. Angelina, the song is for you. For your little rose, a little tattoo. For your smiles that made me so happy. For your tears that made me so blue. And the moon is over your shoulders. And the moon is over your dreams. It's 11, it's late, Angelina. Your little bed is calling you now. I told you to love some good music. And to love true and honest people. You told me how to believe in me. When things sometimes go really wrong. And the moon is over your shoulders. And the moon is over your dreams. It's 11, it's late, Angelina. Your little bear is calling you now. We'll be right back. this song is for you. A little girl, a woman I choose. And while I'll be lost in my life, Angelina, I know you will tell me home. Cause the moon is over your shoulders, and the moon is over your dreams. It's 11, it's late, Angelina. Your little bed is calling you now. I'm Come potete tranquillamente immaginare, ci sono centinaia, se non migliaia, di registrazioni live effettuate in Texas, per cui ho scelto di programmare per oggi gruppi e artisti non americani, per cui abbiamo iniziato con un italiano, appunto Fabrizio Poggi insieme ai suoi Chicken Mambo, e siamo passati ai londinesi Godfathers, band che è stata attiva dal 1985 al 2000, poi nel 2008 si è riformata ed è tuttora in giro, che suona questo pub rock, viene chiamato molto prosaicamente. Loro hanno avuto un buon successo perché sono continuamente in tour, suonano continuamente e hanno fatto diverse cose dal vivo. Questo è un 10 pollici che si chiama Live in Texas ed è stato registrato all'Austin Club di Austin, in Texas appunto. Austin, come ho detto prima, è una città molto molto molto musicale e questo è solamente uno delle decine, se non centinaia di clubs che popolano la città texana. Il brano, l'avrete capito anche qui, l'ho detto diverse volte, si chiama I'm Lost and Then I'm Found. Loro invece si chiamano Godfathers. E visto che siamo in Texas, cosa c'è di meglio di ascoltarci una band che si chiama Texas, registrata in Texas. Peccato che la band non sia texana, ma sia britannica, per la precisione di scozzese, scusate, mi scuso con gli scozzesi. Viene da Glasgow e anche qui abbiamo due trans, 1986, 2005 e 2013 fino ad adesso. Charlène Spitieri è la cantante, che ha tentato anche la carriera solista senza grande successo. Loro sono partiti da un buon rock a un commercial pop, chiamiamolo così, un pop commerciale che non rende merito a quella che è veramente la band. Infatti il chitarrista, del quale non ricordo il nome, uno dei fondatori, se n'è andato proprio per questo motivo. Non hanno fatto album live, hanno fatto però una caterva, come si dice in termine tecnico, di singoli con brani dal vivo. Questo è uno di quelli, Alone With You si chiama, nel brano in studio, a seguire tre brani dal vivo, due sono praticamente uniti insieme, quindi ve li faccio ascoltare, sono due covers. La prima si chiama Can't Get Next To You ed è un brano di Whitfield Strong che è stato portato a successo dai Temptation. Il secondo invece è più famoso, si chiama What Goes On by Lou Reed and Velvet Underground. Loro invece si chiamano Texas e ce li andiamo subito ad ascoltare. It's an old Temptation song we're going to do for you now. It's called Can't Get Next To You. I All shy now. Yeah, sure. A song called What Goes On. Let it go. È certo che fino all'arrivo della voce angelica di John Anderson pochi avrebbero riconosciuto gli Yes. Era il periodo in cui cercavano di aggiornare il proprio sound con risultati non eccellenti, a dire il vero, ma comunque sempre con grande successo di pubblico. Yes, naturalmente, non c'è bisogno di dirlo, sono uno dei miei gruppi preferiti. Arrivano da Londra, sono attivi dal 1968, ma anche non è rimasto nessun membro originale della band originale, perché Stevie Howe, che è il chitarrista, è il più anziano in servizio, diciamo così. The World is Live è un box set di 3 CD che racchiude un po' la loro carriera nella prima parte, perlomeno fino agli anni 90. Questo Rhythm of Love, il brano che ci siamo ascoltati, è stato registrato al Summit di Houston, Texas, il 19 febbraio 1988. Ci sono parecchi festival in Texas, che è lo stato che stiamo sviscerando dal punto di vista delle registrazioni live, e uno di questi si chiama Levitation Festival, si svolge al Carson Creek Ranch di Austin in Texas. Ancora Austin, vedete che torna costantemente. E ho scelto per voi, sono usciti una serie di album chiamati Live at Levitation, e nell'ambito appunto di una scelta di gruppi non americani ho scelto per voi un altro gruppo scozzese dopo i Texas. Si chiamano Primal Scream, sono stati fondati nel 1982 da Bobby Gillespie, che in origine era il batterista dei Jesus and Mary Chain, poi passato al canto. E a questo proposito ricordo sempre un loro concerto al Capolinea 97 di San Giorgio di Piano, era il febbraio del 1990, dove arrivarono tardissimo, ubriachissimi, suonarono malissimo, fu una vera schifezza, ad essere sinceri. Qui invece abbiamo al top della forma, come poi sarebbe stato in seguito, al Levitation Festival appunto di Austin il 5 settembre del 2015. Il brano che ho scelto per voi ce lo annuncia lo stesso Bobby Gillespie, Primal Scream. I think this next song is appropriate for Southfest. Yeah! It's called Higher Than the Sun. Just a little space, feel the time, find a higher state of grace. In my mind, beautiful, I was simple, to follow. I live just for today, talking about tomorrow. What I got in my head, you can't buy, steal or borrow. I believe in love and let live. I believe you care what you care. I song is from 1968. We passed upon the stair, we spoke of was and when. Although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me, never lost control. Your fight to fight with the man who sold the world. Laughed and shook his hand, made my way back home. I searched for form and land, for years and years I roamed. I gazed at guys who stared, but all the millions here, we must have died alone a long, long time ago. Who knows? We never lost control. Your fight to fight with the man who sold the voce inconfondibile di David Bowie ha introdotto questa The Man Who Sold the World, come ha detto lui, un brano dal 1968 che lui aveva tranquillamente riposto nel dimenticatoio, ma poi è stata rispolverata e portata al successo di nuovo dai Nirvana, e lui l'ha ripresa e ha detto va bene, adesso la rifaccio anch'io, ma non poteva naturalmente rifarla come l'originale o come quella di Nirvana, e ha studiato questo arrangiamento basato sul basso di Gaylen Dorsey, una bassista bravissima che ci ricollega anche alla trasmissione scorsa nella quale vi ho fatto ascoltare delle ragazze che suonavano il basso. Il tutto arriva da un album che è stato pubblicato postumo, che ha un titolo in francese che adesso vi faccio ridere, si chiama Ouvre le Chaînes o qualcosa del genere, ed è stato registrato al Starplex Amphitheater di Dallas il 13 ottobre del 1995. Sono usciti 4 album quasi contemporaneamente postumi, questo è uno di quelli e sono tutti veramente molto molto interessanti. Vi dicevo prima di festival texani con il Levitation Festival, ma il più longevo, probabilmente anche il più famoso. È un festival che si lega a una trasmissione televisiva, si chiama Live from Austin, Texas. È, come dicevo, uno show che è trasmesso credo una volta alla settimana più o meno, ed è un festival che dura tutto l'anno, no? Ci sono un sacco di, praticamente tutti i musicisti che suonano ad Austin, Texas, sono nell'ambito di questo festival almeno una volta alla settimana, come vi dicevo. E ce ne sono usciti tantissimi album di questa serie, che si chiama appunto, lo ripeto, Live from Austin, Texas. E l'unico britannico però è un personaggio che vi ho già fatto ascoltare la settimana scorsa, ma che ascoltare Richard Thompson non fa mai male. Lui, come dicevo, viene da Notting Hill, ha fondato il Fairport Notting Hill, Londra naturalmente, ha fondato i Fairport Convention nel 67, per poi lasciarli nel 1971, avviando una carriera solista densa di soddisfazioni, non troppo dal punto di vista economico, ma sicuramente dal punto di vista critica. È un grandissimo chitarrista, è una voce secondo me splendida, ed è stato registrato per l'Austin City Limits Festival il 2 luglio del 2001. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, che vi propongo, è uno dei grandi classici di Richard Thompson, molto molto molto bello. Si chiama Shoot Out the Lights, lo ripeto, era il 2001 ad Austin, Texas, Richard Thompson. Dark, I can't see his face. In the dark, I can reach him. He hides like a chain. He hides like a chain. Keeps his finger on the trigger. Can't stand the day. Shoot out the lights. Shoot out the lights. Get the blind down on the window. Keep the pain on the inside. Just watching the die. Just watching the dawn. He might laugh, but you won't see him. As it thunders to the night, shoot out the lights. Shoot out the lights. Shadows move in the darkness. The game is real. Realize it gone. Realize it gone. As you watch as the lights of the city and it moves through the night. Shoot out the lights. Shoot out the lights. Shoot out the lights. Shoot out the lights. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 5 novembre 2025 e prima trasmissione di questo penultimo mese di quest'anno che ha visto tante uscite discografiche live, molte riproposizioni, molte ristampe, ma sicuramente tanta buona roba. Questa che vi propongo come novità oggi, che come sempre apre la seconda parte di Città Fujiko Live Club, è da parte di un gruppo che si chiama Sixpence Non The Richer, come ho detto già tante volte, un cosiddetto Christian rock, musica rock con testi incentrati sulla religione, solitamente appunto cristiana, e hanno fatto uscire il loro unico album live, forse pare che rimarrà unico perché, come ho detto prima, sembra che si siano sciolti di nuovo, però non c'è nessuna conferma ufficiale per il momento. Il loro unico album è quello che vi propongo, si chiama Live at the Greeny Hall, è stato registrato a New Braunfels in Texas, che è la loro città di provenienza, il 18 di ottobre del 2024, quindi praticamente un anno, poco più di un anno fa, nel corso del loro 25esimo anniversary tour. E se prima vi ho fatto ascoltare Kiss Me, che è il loro brano più famoso anche grazie a alcune serie televisive americane, questo invece è un altro brano che ha avuto tanto successo ed è una cover, un classico di una band che si chiama Elaze, il brano si chiama There She Goes. Questa era l'interpretazione di Sixpence Non The Richer, che hanno riportato in classifica questo brano dopo tanti anni. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, oggi incredibilmente lunga, abbiamo 7 decadi perché sono talmente tante cose che, come al solito, il mio criterio di scelta è un brano per ogni decade, e andiamo subito a iniziare velocissimamente con il 1966. Uno dei grandi padri del blues moderno si chiama McKinley Morganfield, ma molti di voi lo conosceranno meglio come Muddy Waters. Lui arrivava dal Mississippi, la data di nascita è abbastanza aleatoria, è abbastanza incognita, ma si sa con precisione invece che è morto nell'aprile del 1983. Dopo la sua morte sono usciti tanti album live, questo è uno di quelli, si chiama Authorized Bootleg, bootleg autorizzato, ed è stato registrato al Fillmore Auditorium di San Francisco il 4, il 5 e il 6 novembre 1966. In questo caso, molto meritoriamente, i compilatori di questa raccolta hanno segnalato sera per sera i brani che sono stati registrati e che sono stati inseriti in questo disco, e appunto il 5 novembre del 66 è stato registrato questo brano che corrisponde alle prime parole che dice lo stesso Muddy Waters, e quindi lascio a lui il tutto. Since my baby left this town, sun shining all day long, but the rain keeps coming down. Why she left, I just don't know. Forty days and 40 nights since I sat right down and cried. I love that girl with all of my mind. For the day, break his heart, I don't know where. I'm not rich. Altra fantastica voce inconfondibile, quella di McKinley Morganfield, detto anche Muddy Waters. 40 giorni e 40 notti si chiama il brano che ci siamo ascoltati. Non è chiaramente quello di Ornella Vanoni, ma è un brano, un blues, un classico della musica blues, registrato al Fillmore Auditorium di San Francisco il 5 novembre del 1966. Passiamo agli anni 70, anzi fine anni 70, e cambiamo radicalmente approccio musicale da parte di un personaggio che a me piace tantissimo, soprattutto dal vivo, ha fatto dei dischi incredibili, e quello che ci andiamo ad ascoltare secondo me è uno dei più bei dischi dal vivo mai pubblicati. Si chiama Welcome to the Club, è stato registrato al Roxy Theater di Hollywood, West Hollywood per la precisione, Los Angeles, dal 5 all'11 novembre 1979. Tante date, perché il Roxy Theater è un posto molto piccolo, da 500 persone, per cui gli artisti, nel caso specifico Ian Hunter, suonano sere a ripetizione, appunto queste erano 6 sere. Inizialmente era un doppio long plane, 3 facciate dal vivo, 1 in studio, ma a noi appunto interessano quelle dal vivo. Il brano che ho scelto per voi da questo splendido, lo ripeto, album, si chiama Once Bitten, Twice Shy. Lui è Ian Hunter. Thank you. La chitarra solista che avete sentito scorazzare in tutto questo brano, che si chiama Once Bitten, Twice Shy, è quella di Mick Ronson, il compianto chitarrista ex Spiders from Mars, la band di David Bowie. Lui, Mick Ronson e Ian Hunter, dietro vita a un sodalizio musicale molto molto interessante, con un sacco di produzioni all'attivo, molte dal vivo, e questa è proprio una di quelle. L'album, lo ripeto, si chiama semplicemente Welcome to the Club. Il club in questione è appunto il Roxy Theater, West Hollywood, Los Angeles, California. Era il 5 novembre del 1979. Non so se avete visto il film su Bruce Springsteen che è uscito in questi ultimi giorni e che rappresenta bene la parte umana, più che musicale, di questo grande personaggio, che è il mio preferito, come certamente saprete. E chi ha visto questo film sa che quando Bruce si mette in testa una cosa, difficilmente si riesce a fargli cambiare idea. E anche in questo caso siamo nel 1985. E lui andò insieme naturalmente a John Landau, il suo manager, alla casa discografica e disse: ragazzi, finora non ho mai fatto un disco dal vivo ufficiale, sono tantissimi bootlegs dei miei concerti, adesso è ora di fare un disco ufficiale, però ne facciamo 5. Infatti questo album si chiama Live 1975-85, che è il primo album ufficiale di Bruce Springsteen della E Street Band, è stato edito come 5 long playing, cioè quintuplo, 10 facciate in pratica. Poi è stato ripubblicato nei tempi del CD, in triplo CD. Ci sono 40 canzoni registrate in località diverse, come dice lo stesso titolo, fra 1975 e 1985. Quella che ci andiamo ad ascoltare è stata registrata all'Azure Activity Center di Tempe, in Arizona, è praticamente un sobborgo di Phoenix, il 5 novembre del 1980, ed è uno dei super classici del buon Bruce e della E Street Band, tuttora presente sempre o quasi ai loro concerti. Si chiama Badlands. Faith. I don't understand a word. Sorry. The rain threw these words in waves of succession, drawing light to grey across the sky. With history just as close and on the shoulder, in hunger and impatience we cry. The battle against corruption enrages in each corner. There must be something better, something pure. The call that is answered, the gaze to the cities, the demons of salvation on earth. Now we see the rights of children, and a corner has come to purify the future. The arrogance of youth. Nothing is as cruel as the righteousness of innocence with automatic weapons and a gospel of the truth. Revolution. Sterilize laboratories, how the vanity goes on. Or in the message of a preacher with his morals and obsessions, the wars that we wage upon ourselves. Our purity is a virtue, purity is an angel. Purity is for my men to make fools of us all. So forgive yourself, my friend, or this will soon be over. What happened here tonight is nothing at all. Revolution. Broken down piano, his fingers thick and red, shaking on the keys. Battered by the years of alcohol and working, but playing with a faith that never leaves. So sit us down, buy us a drink, tell us a good story, sing us a song that we all know to be true. I don't give a damn that I never will be worthy. Fear is the only enemy. Oh, but I still know. Vi ho già proposto diverse volte album della serie BBC Radio 1 Live in Concert, registrazioni effettuate dall'ente di Stato radiotelevisivo britannico e trasmesse una volta alla settimana per un lunghissimo periodo di tempo. Adesso non esiste più, come non esiste più questa serie di album che è stata pubblicata anche questo per diversi anni, poi all'improvviso ha smesso, si vede che le vendite non erano poi un granché, ma comunque come dicevo solitamente si tratta di musicisti britannici, bands britanniche registrate in Gran Bretagna, mentre poche sono le eccezioni. Questa è una di quelle, infatti è stato registrato alle Sporthalle di Berlino in Germania il 5 novembre del 1990 da parte di una band che è molto molto molto famosa in Germania, non a caso allora è stato registrato lì. La band si chiama New Model Army, vengono da Bradford, Gran Bretagna, sono attivi dal 1980 sotto la guida di Justin Sullivan, e il brano che ci siamo ascoltati da questi New Model Army si chiama Purity, ripeto, era il 5 novembre 1990. E ho detto tante volte che ci sono delle bands che non hanno avuto il successo che meritavano, questa soprattutto. È una band che si chiama tuttora Pavlov's Dog, ma poco c'entra con quella originale, perché i Pavlov's Dog originali si formarono a St. Louis e sono stati attivi dal 1972 al 1977. David Surkamp, che era il cantante, incredibile voce di quella band, ha riesumato il nome Pavlov's Dog nel 2005 ed è tuttora in giro con questo moniker, alternando proprie canzoni, quasi tutte, con canzoni originali dei Pavlov's Dog, e ha fatto un paio di album live. Questo è purtroppo della prima band, sono pochissime le registrazioni e tutte con una qualità audio non propriamente eccelsa. Dicevo, ha fatto due album live, David Surkamp con i Pavlov's Dog, chiamiamola anche David Surkamp Band volendo, e questo è il primo, si chiama Live Unleashed, è stato registrato durante un festival a Burg Erzberg in Germania, anche in questo caso il 5 novembre del 2009. La Germania è molto molto più rock di noi, ma comunque questo è un altro discorso. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è proprio un classico dei primi Pavlov's Dog, si chiama Standing Here With You, incredibile, la voce di David Surkamp, era il 5 novembre 2009. Yeah. I primi due album in studio di Pavlov's Dog sono assolutamente imperdibili in ogni discoteca che si rispetti. Pampered Menial e At the Sound of the Bell sono capolavori in senso assoluto. Questo erano Pavlov's Dog seconda versione, meglio da dire la David Sharkham Band, ma la voce di David Sharkham è sempre incredibile. Il brano che ci siamo ascoltati, l'album si chiama Live Unleashed, il brano invece si chiama Standing Here With You, è stato registrato il 5 novembre 2009 a Burg Esberg in Germania. Altra band fra le mie favorite, Black Crowes, sono i fratelli Robinson che arrivano da Atlanta e sono attivi dal 1984 con diverse interruzioni a causa dei continui litigi fra i due fratelli Robinson. Wiser for the Time, o Wiser for the Time sarebbe meglio dire, il quinto album live della band, è un bel cofanetto di quattro long play, c'è anche la download card per chi vuole invece scaricare il tutto in CD come ho fatto io, e sono delle notti, non mi ricordo quante, anzi no, sono sette notti, ma una sera non suonarono, quindi sono sei, dal 31 ottobre al 6 novembre al Best Buy Theater di New York City, che se ricordo bene è quello che è proprio a Times Square. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei loro super classici, si chiama Hotel Illness, loro sono Black Crowes, era il 5 novembre 2010. Well, it's that time in the show for Here Comes Steve with the big bass drum. Oh, good heavens, baby, where is my L'album si chiama Wiser for the Time, è un quadruplo long playing, Black Crowes dal vivo al Best Buy Theater il 5 novembre 2010, Hotel Illness, il brano che ci siamo ascoltati. Come sempre in chiusura, molto molto velocemente, Charlene Marian Chan Marshall, meglio conosciuta come Cat Power, la sera del 5 novembre del 2022 alla Royal Albert Hall ricreò pedissequamente il famoso concerto della Trade Hall di Manchester di Bob Dylan, concerto nel quale lo accusarono di essere un Giuda. Il concerto era il 17 maggio del 66, erroneamente per tanti anni fu creduto effettuato alla Royal Albert Hall, invece era a Manchester. Lei invece lo fece proprio alla Royal Albert Hall. Il brano che ho scelto per voi si chiama Baby Let Me Follow You Down, naturalmente sono tutti brani di Bob Dylan, e conclude questa Record Today, ma anche Città Fujiko Live Club di oggi, 5 novembre 2025. E vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo per una nuova trasmissione, naturalmente sempre da Radio Città Fujiko. Vi ringrazio per l'ascolto, dicevo, vi lascio in compagnia di Cat Power e il brano si chiama Baby Let Me Follow You Down, Bob Dylan, dal 5 novembre del 2022. Ciao a tutti da Nevio. Serpent skirt.